Sono le 22 e 40 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, buonasera a tutti. Conclusa la parentesi sanremese con Gisele Vesigna, ci buttiamo nella nostra parentesi solita, live, direttamente da Ancona, solo per noi gli Oloferne. Buonasera ragazzi. Ciao, buonasera. Avete fatto un buon viaggio? Sì, sì, sì, è andato bene, molto importante bene. Questo. Un viaggio terribilmente acustico, totalmente acustico stasera. Dal vivo li abbiamo visti a Limena, acustico-elettrico, posso dire così? Sì. Qui totalmente acustico, ma un acustico diverso, un acustico da sentire, da sognare, posso dire anche così. Due album all'attivo e tanti concerti in giro per il mondo, no? Sì, ti correggo, tre album all'attivo. Tre album all'attivo, scusami. Non ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Ne conoscevo due, ma c'è un terzo sicuramente. Io ne ho sentiti due, ecco per quello forse. E avrai il primo regalo, abbiamo difficoltà a regalarlo anche perché è andato esaurito. Quindi bene, questo, una cosa positiva, è positivo. Molto positivo. Sì, sì, sì, tanti concerti e... che ci hanno portato qua. Abbiamo scoperto il pubblico di Padova proprio grazie a Risonanza Unplugged. Che avete vinto, dobbiamo sottolinearlo, avete vinto alla grande. Che abbiamo vinto e i nostri viaggi musicali ci hanno portato in questa terra dove la gente, abbiamo scoperto, ama la buona musica, o almeno quella che cerchiamo di proporre come buona musica. Quindi veniamo felicissimi di essere ospiti di Blu Radio Veneto. Noi siamo felicissimi, quindi, di avervi ospitato, perché è da Ancona fino a qua, non è mica sì, uno scherzo, chiaramente. È un po' di strada, ma ne parlavamo oggi venendo in macchina, se mi consenti. Certamente. Chi fa musica deve avere un principio etico. Certo. Ossia rispettare la bellezza di quest'arte che tanto ci sta cara. E quindi per noi era importante essere qua da chi ha dimostrato di apprezzare quello che facciamo. Com'è partito l'idea degli Oloferne? Come si è sviluppata con il tempo? E si è partita proprio con le persone che vedi qua. Beh, li possiamo citare. A questo tavolo, Alessandro Piccioni, ciao al flauto, che è qua. Al flauto. Gianluca Agostinelli alla chitarra. Ciao. Giuseppe Cardamone al violino. Ciao a tutti. Poi c'è Marco Medici alla batteria, che verrà domani proprio per il concerto. Oggi, essendo una dimensione più intima e acustica, ha preferito stare a casa, esattamente, a riascoltarsi. E tu sei la voce del band. E io, esattamente, sono un po' così... la voce del gruppo. E con Alessandro 10 anni fa abbiamo deciso di dar via un progetto di questo tipo, a modo nostro, credevamo e crediamo tuttora originale. Da lì è nato tutto, si sono aggiunti gli altri, ecco, 10 anni di viaggi, di amori, di strade che si sono incrociate, che si sono separate, tutto quello che è un po' la vita, no? Cioè, partendo dal folk, poi si è sviluppato un po' tutto. Il folk a 360 gradi, non il folk come folk solamente. Esattamente, sì, perché proprio, ecco, poi Alessandro ci spiegherà anche un po' meglio, visto che la cosa è partita un pochino insieme agli inizi. Volevamo fondere i nostri amori musicali, partendo da un rock vicino a quello che potrebbe essere una folk rock alla Nick Drake, sì, a quello invece magari più vicino a Ian Anderson, o al folk attuale, oppure Dylan. Quindi ecco, fondere le nostre differenze invece di far sì che rimanessero tali, quindi differenze, e abbiamo cercato di unire appunto questi sapori, per far sì però che la pietanza fosse non disgustosa, ma no, appetibile. Assolutamente non disgustosa, certamente. Poi stasera sentiremo, sarà molto molto importante la pietanza, musicalmente parlando, e non solo musicalmente parlando. Ringraziamo la nostra regia fondamentale, Michele Ottosoni, regia, il mitico regista di Rock Wave, Roberto Baldi, che ha curato le telecamere, anche se non è presente, Agostino, che ha curato le telecamere, Alberto Plisco, che ha curato l'organizzazione del concerto, e la nostra redazione femminile. Dobbiamo salutare la nostra redazione femminile, la Nicoletta, la Silvia e la Patrizia, che continuano il nostro discorso musicale. Facciamogli un applauso alla redazione femminile. Un applauso alla redazione femminile. Ok, adesso partiamo con questo grande mondo degli Oloferne. Partiamo con un pezzo dall'album nuovo che avete inciso un anno fa, mi pare, all'incirca. Sì, più o meno, è uscito l'anno scorso, quindi abbiamo impiegato circa un anno per registrarlo, per affinarlo, eccetera, quindi... Benissimo. Salutiamo anche il nuovo parterre, c'è Agostino e Nino, che partecipano anche loro alla vita di Rock Wave. Il primo pezzo si intitola come? Si intitola L'Argonauta, perché dimmi appunto perché. Il viaggio non è distinguibile da quella che per noi è la musica. Ogni viaggio che abbiamo fatto suonando e cantando è diventato canzone. E quindi L'Argonauta apre un disco perché è un ennesimo viaggio, un viaggio in quella che sono le acque dei nostri umori e delle nostre sensazioni. Noi siamo segni d'acqua in questo senso, perché proveniamo dal mare e perché la fluidità di questo elemento è la fluidità un po' della musica che si unisce in quello che facciamo. Io, se i ragazzi mi consentono, vorrei dedicare, e se tu me li consenti, ma questo certamente primo disco a una persona a noi cara che purtroppo di recente è venuta a mancare. Ne parlavamo oggi, però è stato un grande amico, noi gli vogliamo bene. A Populizio dedichiamo questa prima canzone, che è L'Argonauta. Bellissimo. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Segui la strada per Budapest, non scordarti l'anima. Ti aspetterò in mezzo ai tepori delle saune della città. Sulle strade di melograno che da Istanbul portano qua, riportami quegli odori nascosti tra le moschee e i bazar. Inebriati col volto del poeta che ti prendeva per mano e chissà quanta luce da quella finestra che dava sul Real Casal. Ricordami come fossi la chiesa dove pregavo il mio santo perché proteggesse una chioma di vino colante sul viso vibrante di me. Scendi dal treno che da Buenos Aires percorre l'America, mi troverai in Plaza de Mayo a piangere i mali dell'umanità. Regalati un sospiro libero steso sull'erba delle Highlands, annusa quel whisky sul quale galleggiava la musica. Inebriati col volto del poeta che ti teneva per mano e chissà quanta luce da quella finestra che dava sul Real Casal. Ricordami come fossi la chiesa dove pregavo il mio santo perché proteggesse una chioma di vino colante sul viso vibrante di me. Dove pregavo il mio santo perché proteggesse una chioma di vino colante sul viso vibrante di me. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockway.altervista.org, quindi ci potete vedere e sentire. Sentire fra qualche minuto per vedere anche da adesso, anche da prima, chiaramente. Abbiamo il nostro fotografo ufficiale che si è nascosto adesso, che ha fatto le sue fotografie. È qua? Ecco, è nascosta, non si vede. Ok, parliamo del primo pezzo allora, del pezzo che abbiamo sentito. Un momento colore argentino, perché c'è un motivo. Sì, perché qualche anno fa abbiamo avuto appunto la fortuna e l'onore di poter andare in tournée in Argentina e mi ricordo che uno degli ultimi giorni li abbiamo passati a Buenos Aires, ci siamo trovati in Plaza de Mayo e abbiamo percepito davvero quello che significava essere parte di un momento storico molto particolare e profondo. Per questo a ritorno scrissi questa canzone, poi come facciamo sempre, noi lavoriamo tutto insieme quello che facciamo, quindi abbiamo iniziato ad arrangiarla, a sistemarla, è nata questa canzone appunto che siamo l'Argonauta, che inizia con una manifestazione appunto che le madri di De Maio ogni settimana tengono appunto nella piazza. E alla ricerca dei figli. Ancora alla ricerca dei figli che purtroppo non ci sono e noi adoriamo questo paese, ce l'abbiamo nel cuore, tuttora ci sentiamo, anzi sappiamo che in Argentina qualcuno ci sta ascoltando. Certo, via internet sicuramente. Ci stanno ascoltando, come è successo nell'ultima intervista radio fatta, anzi un saluto ad Adriana, a tutti i nostri fan argentini. E che dire, si è creato questo legame indissolubile che prosegue appunto nel disco, perché alcuni brani parlano dell'Argentina, come Piedra del Paranà, che poi ascolteremo, perché il Paranà è un fiume che attraversa l'Argentina, che abbiamo percorso, e lì proprio la voce di Populizio parlava di quanto l'amicizia e la musica fossero importanti, e questi sono tatuaggi che noi portiamo dentro. Certo, quindi lo sviluppo del pezzo è partito da quel motivo là, da quell'input là, poi si è sviluppato con gli Oloferne, chiaramente. Certo, perché trovandoci insieme in questa sorta di fraternità, perché per noi il gruppo è un gruppo fraterno, Alessandro è come fosse davvero mio fratello, non solo un grande valido musicista, allo stesso modo gli altri compagni di viaggio che si sono uniti, quindi per noi questo è un progetto di vita, e la musica va vissuta così. Certo, la vita e la musica sono strettamente legate, non c'è niente sì, da fare. Sì, sì, siamo contenti di vivere, di avere questo approccio. Come i gruppi di una volta, io cito, non so se abbiano tanta attinenza a voi, però cito i Grateful Dead, che era una comune totale di musica. Musicavano sempre, suonavano sempre in continuazione, al di là degli eccessi, io parlo solo di musica, continuavano a suonare 6-7 ore in continuazione. La musica, gli anni di una volta si vivevano in questa maniera, però lasciaci dire una cosa. Dimmi. Prima di entrare qua, Alessandro disse, visto che oggi dormiremo qua in zona e abbiamo con noi le chitarre, allora ho detto, ma perché non scriviamo delle canzoni questa notte? Io credo che questo sia testimonianza di come noi viviamo la cosa. Certo, questa è una soprattutto cosa Alessandro. Esatto. Una cosa meravigliosa quello che tu hai detto. Benissimo, siccome io voglio far sentire molta musica, sentiamo l'altro pezzo che abbiamo deciso in scaletta. Il titolo adesso non lo ricordo, me lo dite voi. Il secondo credo che sia Volver. Esattamente. E infatti, come dice il nome, anche il nome è una parola spagnola che significa ritornare. Ritornare. E appunto questa è una storia che abbiamo scritto, che parla proprio di un ragazzo che è venuto via dalla terra del Sud America, sogna e spera di ritornare alla sua terra natia. Certamente, lo sentiamo assieme e poi cominceremo a suonare. Rock Wave, l'onda del rock. Fuggo e son distratto da voci verso sud. Corrono veloci verso un mondo in cui non c'entro più. Disteso guardo in su, penso alle parole di mia madre prima di lasciare il blu, che abbraccia il male con. Quando sento freddo guardo in alto e ci sei tu. Tra cristalli, fumo e plastica fuggivo la miseria, ma mi trovo in trappola. Bacio un po' di rum, mi aiuterà a scappare via. A lato di parole, le ricordo e così sia. E va, va, va. Diceva non aver paura, lotta col vento se ti consuma. Sei come terra fresca e pura, frutta che pende dal cielo di Cuba, e come il sole sorge ancora, sali su. Scappo dalla nebbia che mi inghiotte l'anima, ma non muoio finché l'occhio scuro brillerà. Qui resisto, mi rattristo, ma ritornerò a quella voce che bruciava e dava un brivido. Lei sa, sa, sa, diceva non aver paura, sfida il deserto che ti consuma. Sei come terra fresca e pura, frutta che pende dal cielo di Cuba, e come il sole sorge ancora, sali su. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, dobbiamo citare una cosa importante. Linda, la nostra fotografa, fa parte dell'associazione Sperimenta, che ha così organizzato talmente bene Risonanza Blacked 2009, dove io e Lo Ferne hanno vinto a Limina. Complimenti a questa associazione, veramente tanti complimenti. Viva, viva. Ok, parliamo di questo pezzo. Allora, abbiamo già parlato prima, ma chiudiamo il cerchio. Ma Giacomo, vai, Giacomo. Se mi cedi la parola, tanto sto parlando poco. Vabbè, io parlo anche per bocca di tutti. Vabbè, sei la voce, senso. Dopo tutto. Noi siamo gli strumenti. Sì, la canzone Volver, dicevamo, no? Quella sì, che è appena passata. Esatto. Esattamente, sì. È un altro incontro, musicista cubano, quindi una canzone che nasce in un momento particolare. Si va in sala prove, ragazzi, c'è questa canzone. Come piace... si crea un pezzo di Holofernes in sala prova? Ma si crea così. Di solito sono idee che nascono, ecco, magari da un testo che scrivo io, che scrive Alessandro, o da un momento di ispirazione del chitarrista o del violinista. Quindi l'incipit iniziale è soggettivo. Poi ci si trova in sala prove e la democrazia vuole che si parli un po' in generale di quello che è il pezzo. E noi in questo siamo imbattibili, nel senso che potremmo discutere di una piacevole stupidaggine anche per ore. Però questo è costruttivo e quindi quando alla fine il pezzo esce, esce perché è stato davvero partorito. Come in questo caso abbiamo puntato, cercato di dare a modo nostro una visione di quello che volevamo raccontare. Ecco. Benissimo. Bene, abbiamo descritto i due pezzi e tutti siamo pronti in attesa di suonare, chiaramente. Non io, ma voi, chiaramente. Come cominciamo questa scaletta che andrà oltre la mezzanotte? Beh, io direi che possiamo iniziare con Elfie Strigg, uno dei primi pezzi che abbiamo scritto, infatti in inglese. In inglese, sì. Appartiene al primo disco che si chiama appunto Holofernes, omonimo, e così sentiremo il flauto di Alessandro. E per chi fosse curioso, questo è stato anche il primo pezzo con cui abbiamo fatto un videoclip che è disponibile su YouTube, sul nostro sito. E quindi... Citiamo il vostro sito. È www.holofernes.com. È molto semplice. Infatti. Ok, fra qualche secondo partiamo. Rock Wave, l'onda del rock. Come here my friends, listen to my story. My story starts in light and the dark. He once was walking through forest quite slowly, when Elvis does read down on his eye. So light, light, light, light and dark, dancing fast, fast, fast in my mind. 3 days have passed, I went out from the forest. My eyes were too weak, and that's why I became blind. I've seen the marriage of glittery shadows. Too long I've been dead into the night. I'm blind, but I see no one I could have seen. I'm blind, but I can cry within the wind. Cry for this world where you don't choose the morning. I like to be a dream, living in the breeze, like a tree or a rock or a fish in a river. Every day tasting the colors and be free. But now all my sadness flow away in tears, crying in my hands. I am just a man, I am just a man. I am just a man. Attentions to the songs of the forest, you'll understand why I call them his own. Beautiful colors, the smells and the flowers. Every day you start to fly, so light, light and dark, dancing fast. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Bravissimi siete stati, bravissimi, grazie. Bravissimi, grazie, complimenti. Grazie mille. È una specie di jam session questo pezzo, secondo me. E è la vostra caratteristica di fare un pezzo, di fare una trama sonora, poi cambiarla totalmente e poi riprendere la trama sonora. Più o meno così, più o meno così. Infatti, guarda. Per mettere in difficoltà i DJ. Anche, no, per metterci anche in difficoltà a vicenda. Esattamente. Poi queste magari ci sono delle regole a volte per fare i pezzi. Noi in qualche modo un po' non sempre le seguiamo, ci piace anche divertirci. Ma improvvisato, no? Questo pezzo? No, questo... Questo oggi l'abbiamo rivisitato in chiave acustica, così, però non c'è tanta improvvisazione, nel senso, sembra improvvisato, ma... Sembra improvvisato, cioè sembra qualcosa che esca improvvisamente, come si è detto, si sviluppa e poi rientra nell'alveo come un fiume. Volevamo fare questo, se l'hai vista così ci siamo. Io l'ho vista così, allora, l'ho sentita male. Così. E allora in qualche modo ci siamo. Benissimo, 2307, diretta rockway.altavista.org, ci potete sentire e vedere con gli Oloferna di Ancona che stanno facendo il loro concerto. Acustico, ma un acustico per modo di dire, con molta energia, con molta forza. Esatto. Perché anche Jeff Buckley faceva un concerto acustico, oh, però che energia e forza. Che aveva. Esempi che fai, che esempi. Jeff Buckley è un amore incredibile. Ti racconto una cosa, sono venuti a suonare circa 400 band e su 400 band almeno 350 hanno citato Jeff Buckley come loro ideale musicale. C'è anche un vostro cantautore di questa zona che a noi ha ricordato Jeff Buckley, il nostro... adesso Massimo Danieli. Massimo, bravo, esatto, che è venuto a suonare io da voi. Apposta non suggerivo, volevo vedere se ti ricordavi. Massimo Danieli, che tra l'altro è anche lui un devoto guadalupiano da poco tempo, ma è un grande, quindi... E lui è venuto a suonare qua, ha fatto la sua esibizione qua da noi, che lentamente tutti quanti i... tutti quanti che hanno suonato a Risonanze, bene o poco, lentamente tutti quanti verranno a suonare qua. È meno una cosa male. Positiva. Certo. Passiamo all'altro pezzo, allora. Siete pronti? Avete riposato qualche secondo con le mie ciangole? Ciangole, come si dice qui dalle nostre parti. Guarda, allora a questo punto facciamo un pezzo che si chiama L'amore della salamandra, che racconta di un amore che si consuma nelle campagne marchigiane. Noi abbiamo cara la nostra terra. Certamente. E nelle nostre canzoni, nei nostri testi. Nel nostro DNA. Nel nostro DNA, e questo testo un po' particolare si sposa ad una melodia che vuole ricordare qualcosa di in qualche modo piacevolmente occulto. Infatti si intitola L'amore della salamandra. Okay. E lo facciamo in chiave prettamente acustica anche questo. Certamente. Rock Wave, l'onda del rock. Giusto un attimo che mi devo accorgere. Anzi, si deve scordare. Perché per questo pezzo Gianluca... Deve scordare la chitarra. Yeah. Vai. Mancano 2 minuti e son le 3. Ho predisposto tutto per te e me. C'è una luna fertile, s'accoppiano lucertole nelle vene pece bollente. Scendo dalle scale con ali di tenebre, del mio gatto imito il passo e già mio padre dorme. Il fuoco nei capelli sarà il lume per trovarti là. Sta vicino al noce dove hai disegnato un cuore, bimbetto romantico, hai fatto un grave errore. Io non cerco fedeltà, anelli, amore, bla bla bla. Svelto bussa a questa porta e sentirai il calore di chi trebbia sotto il sole. Ascolterai il verso del ranocchio quando piove. Con l'aratro tracciami, sarò terra per i piopi. Se... sentirà nessuno, i gufi sono spie. Io vedo con il loro occhio, non fermarti, non uscire, non tremare, sono qua. Scegli il fiume che ti va, poi il vino rosso scorrerà. e piango lacrime bollenti scendono dai capelli, colano su questo anfratto circondato d'olmi. Io galoppando correrò fino all'Adriatico. Sono pronta, alzo gli occhi e vedo stelle come spine. Sembra di morire ma rinascere il mio fine. Si mescolano i fluidi, i seni ancora turgidi. Io non vedo più limiti e batte il cuore col suo zoccolo sopra il mio sterno. Con polmoni immortali mi riscalderei all'inferno. Sbocciano fiori su di me, lascio al vento un velo vergine. Salamandre tutto intorno cantano e fanno frastuono. Dicono che sono figlia di un oscuro parapiglia. Vestiti o rigurgito, hai già svolto il tuo compito. Sono le 23 e 14 minuti. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Non so se i nostri ascoltatori non hanno notato, io sì, la Linda sapeva a memoria tutti i pezzi, tutti i pezzi sapeva a memoria, ho visto io che cantava assieme agli Olofen, bravissima. Quindi la nostra, la fotografa e la manager della band, ma sì, una manager ideale. Ci ha dato una grande mano, come tutti quelli di Expedi Experimenta. Esattamente, sono stati bravissimi. Bene, anche questo pezzo era molto bello e molto con la caratteristica vostra di cambiare totalmente e poi ritornare sempre nell'alveo, come ho detto prima. A me piace particolarmente questo modo di interpretare la musica. Bene. Da, proprio convince, trasporta, porta avanti, secondo me. Anche in questa dimensione, che non è una dimensione acustica, ma un'acustica, come abbiamo detto prima, per modo di dire, un'acustica veloce, un'acustica che ti prende dentro. Sì, infatti questo è vero. Poi per noi è molto strano suonare un pezzo quando siamo abituati a suonarlo, no, con la batteria e tutto il resto, però è un approccio piacevole e ecco, se il pezzo funziona anche in questo senso siamo ancora più contenti. Certo, funziona perfettamente. Io ricordo quando suonava lui il violino al festival, alla Risonanza Unplugged, misuratissimo, perfetto, ma con una potenza spaventosa, ricordo, mi è rimasto proprio in mente quella cosa là per un sacco di tempo. Grazie, ti ringrazio. Veramente. Ok, adesso facciamo riposarvi un poco. Grazie. È stato un po' pesante, non pesante, ma musica, quando si suona, ci dà tutto nei minuti in cui si va avanti. Allora, abbiamo deciso di far sentire un pezzo dal disco, la traccia numero... la traccia numero 4. 4. Numero 4, esattamente. La presentiamo un momento, così riusciamo a gesticolare meglio il discorso, cioè a prendere il pezzo. Dunque, adesso sembra che abbiamo fatto un disco solo sull'Argentina, in realtà non è così, però anche questo pezzo era il pezzo che Giacomo aveva introdotto, è appunto Piedra del Paranà, quindi questa canzone effettivamente più di ogni altra ha contraddistinto proprio l'esperienza argentina, perché l'abbiamo veramente composta sul nostro piccolo pulmino con il quale sì. macinavamo questi chilometri. Sì, sì, sì. Così, che aria si respira in Argentina? Aria buona. Aria buona, aria non inquinata. Non inquinata. Sì, sì, sì. No, si respira un clima molto diverso da quello che abbiamo qui da noi. Qui da noi, sì. Un clima dove la vita è affrontata con più semplicità, ma non per questo con meno profondità. Certo, capito. E quindi è un posto che ci è piaciuto particolarmente proprio per questo spirito. Ecco, di apprezzare ogni cosa, apprezzare anche il fatto che per raggiungere magari una città vicina bisogna fare tanti chilometri, bisogna fare almeno 2 o 3 ore lungo strade veramente inenarrabili quasi, però anche quello è un'esperienza molto bella. Sì, io volevo infatti aggiungere alle parole che dice Alessandro, che condivido pienamente, il fatto che noi ci siamo trovati a suonare in teatri tra l'altro antichissimi, alcuni dei quali con persone che pagavano un biglietto per ascoltarci senza conoscerci, e teatri che si riempivano per questo. Quindi l'interesse delle TV locali, dei giornali, immagina venire da una realtà in cui tu vai da un gestore di un club, ti dice sì, vieni a suonare se porti gente, quindi per noi era come trovarci in una sorta di paradiso. Da lì gli Oloferne magicamente hanno preso un percorso musicale che ci ha un po' liberato di queste bassezze, perché io così le chiamo, no? Ora io capisco che ognuno ha i propri problemi nella vita di ogni giorno, però poter suonare essendo rispettati è il massimo, è una bella cosa. È che abbiamo provato tra l'altro proprio qua a Padova, e non lo dico per fare il lecchino, sia chiaro, ma in questo concorso ci siamo trovati bene proprio perché abbiamo respirato il rispetto. Non solo Alessandro può che mi sia di testimone il mio tattoo. Ti dissi quando eravamo sul palcoscenico, mi sembra di stare in Argentina, perché avevamo tante persone attorno a noi che si prendevano cura dei suoni. E la stessa cosa l'abbiamo provata qua, il che anche questo è difficile, perché ti va bene se hai un fonico spesso, certo. e ti va pure bene se ti ascolta. Quindi, è vero, erano bravissimi quelli di Risonanza. E quindi ora ti dico, non puoi tornare lì, però è stato meraviglioso. E Paranà, questa canzone nasce perché una ragazza si presentò sotto il nostro albergo prima che noi partissimo, ci lasciò una lettera nella quale scrisse che il nostro concerto l'aveva aiutata in un momento difficile che le stava passando, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone, quindi più di così non so cosa. È una cosa meravigliosa, lo sentiamo assieme allora. Rock Wave, l'onda del rock. Che male c'è dormire sopra di te, i sospiri sono spasi mie, non ho niente da perdere. Pensare che il mio grembo è pronto per te, gli occhi saranno fonte, le labbra sottili largi, ne Ophelia, per vedere se la tua quiete può trascinare me, il mio grido flebile possa affogare in te. Che male c'è, ora respiro nuvole, i sospiri sono attimi che passano flui. poco, pero permanecen eternamente en la memoria. Han sido muy pocos días los que han estado ustedes acá, pero creo que no los vamos a olvidar, como creo también que ustedes no nos olvidaron en aquel momento con la doctora Judy. Yo decía el otro día que la amistad no tiene ni espacio ni tiempo, aunque nos separen muchos kilómetros, creo que seremos amigos para siempre. C'è, ora respiro nuvole, i sospiri sono attimi che passano fluidi. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. 23 e 24, chiaramente tutto dal vivo, tutto live con gli Oloferne che fra poco cominceranno a danzare ancora musicalmente parlando. Abbiamo sentito questo pezzo dedicato ancora all'Argentina, questa terra piena di strade, non prettamente autostrade, di strade da percorrere con questi camion, con queste corriere anche vecchie forse, sì, molto vecchie, sì. Decisamente vecchie, non sono gli autobus americani degli Stati Uniti, chiaramente americani, si parla di altri tipi di autobus, però lo spirito è molto diverso, dichiaratamente molto sincero forse anche in alcuni momenti, sì. Cosa dite? Sì, sicuramente. Ok, parlato di questo disco, adesso cominciamo a suonare qualcosa dal vivo. Cosa avete preparato, l'idea di questo spezzone di programma? Allora, come il prossimo pezzo è un pezzo che viene dal secondo disco, Le parole del vento. Questo in particolare è un pezzo che nasce proprio acustico, quindi speriamo di riuscire a rendervi proprio attraverso questa sessione un po' le sonorità con cui è nato. Il pezzo si chiama Cristallo di Boemia, un pezzo che parla di se stessi fondamentalmente, parla un po' di una condizione in cui qualcuno si trova diciamo chiuso in se stesso, in difficoltà a relazionarsi non solo con gli altri ma anche con tutte le vicende della quotidianità, e in qualche modo cerca di ribellarsi a questo, reagire, e quindi trova in qualche modo una via di fuga e una via di libertà. Tu hai suonato due flauti. Sì. E adesso suoni la chitarra. Esatto. Il flauto, quello flauto normale, più l'altro è un flauto di pan? No, questo è un whistle. È un whistle, cioè praticamente comprato proprio a Dublino. A Dublino, è irlandese, totalmente irlandese. Sì. Poi ne ho un altro, suonerai anche il terzo? Il terzo non lo so. Questo lo porto più che altro perché è un whistle marchiato da, diciamo, con lo stemma della Guinness. Ah, la birra. Quindi una rarità assoluta. Esatto, quindi più che altro lo porto. Poi fanno vedere la telecamera, non facciamo pubblicità, tanto non ha bisogno di non pubblicità, bisogno. Chiaramente. Non so quale telecamera, ce ne sono tre. La 1, la 2, la 3. Ok, perfetto. Dopo altri, ho tantissimi altri flauti, però diciamo non tutti si prestano sempre alla musica. Sono un appassionato. Perfetto. E sì, anche la chitarra. E anche la chitarra. Ok, cominciamo allora con questo pezzo. Rock Wave. L'onda del rock. Sulle strade, neve sulle labbra mie, e freddo crudo non si scioglie, scivola anche se, e bianco non è candido, si sporca su di me, ed un violino suona al buio, fonde il canto mio. Sei. Thank you. nudo come un fiore che sorride, vola via. Dona semi a insetti ingrati, stelo rompiti, crepiti di favole perverse intorno a me. Elfo la tua polvere, è neve, neve c'è. Se mi ascolti soffia i cristalli finché cigni stanchi planino contro di me. Per scalfire il marmo che ho indosso perché era freddo e ho cercato rifugio dentro te. Se mi ascolti soffia cristalli finché cigni stanchi planino contro di me. Per scalfire il marmo che ho indosso perché era freddo e ho cercato rifugio dentro te. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo, ci siamo. Bellissimo questo pezzo. Bellissimo e romantico, posso dire questo? Beh sì. È un sì, po' romantico. Sì, è un po' romantico. È romantico. dimmi. No, dicevo che anche secondo me è un po' romantico. Sì, io l'ho sentito alle 23:30, l'ho sentito anche romantico, perché no? Sì. Non c'è poi da dire. Questo adesso ne parlo io, perché in qualche modo è partito da me un po' lo spunto musicale. È partita da me, effettivamente sì, l'ho fatto. Poi il concetto della neve nasce anche perché effettivamente l'ho detto almeno tre volte in una frase, è incredibile. Effettivamente sì. Effettivamente. Vabbè, no, io non c'è nessun problema. E no, dicevo, era quando l'ho scritta ero in questo scenario di città storica vicino dove studiavo quando facevo l'università, dove era tanti caduta anni fa, fo- tanti posso, anni fa. Ecco. Non infierire sul fatto che sto perdendo la mia giovinezza. aveva fatto una nevicata molto, molto grande. Io tra l'altro quel tempo abitavo all'ultimo piano di un palazzo molto alto, quindi vedevo proprio questa città molto grande completamente innevata. Da lì nasce tutta l'immagine anche del ghiaccio, della neve, che... La neve è un'immagine romantica in ogni caso. Infatti proprio per quello ho citato questo aneddoto o aneddoto, non l'ho mai saputo, Giacomo. Aneddoto. No, io ne vorrei citare un altro di questo. Vai. Aneddoto, proprio andando a come noi scriviamo le canzoni. Certo. Alessandro, quando propose la canzone, gli disse: Alessandro, questa è una bellissima canzone, infatti secondo me lo è. Sì. Non toccarla, lasciala, io ti faccio il controcanto, lasciamo perdere perché è bella così. Dice: solo una cosa non va, ma già, Alessandro, il titolo. È vero. Cristallo va, ma di Boemia, perché sei sempre così barocco, gli ho detto. E lui dice: no, ma perché la neve, perché la Repubblica, non so che cosa, del Nord Europa, una cosa o un'altra. Dico, ma guarda che ricorda i bicchieri di cristallo, il cristallo sì. Di Boemia. Fa: no, ma non è vero, non è vero. Vabbè, Alessandro, a un certo punto uno lascia, no? Lascia correre e così è stato, e ormai anche per me è divenuta è cristallo di Boemia. Perfetto. Diciamo, ormai sono riuscito a vincere questa battaglia quando abbiamo fatto il modulo della SIAE. Anzi, ringraziamo la SIAE a proposito. Avrei qualcosa a ridire su questa cosa. Alessandro, era ironica la mia affermazione. Vabbè. Dovevate decidere, quello dovevate scrivere. Esatto, io prima gliel'ho fatto firmare e poi ho messo il titolo. Chiaro. Perfetto. E va bene così. Ok, abbiamo deciso quindi di fare un altro pezzo mentre tu bevi un po' di acqua, mi pare giusto, ti dissetti un momento. L'altro pezzo che abbiamo deciso di sentire adesso qual è? Ricordate il titolo? Di ascoltare sì, dal vivo. Pensavamo di mettere Habiba, è un altro brano che parla degli incontri, perché Habiba è una ragazza che abbiamo incontrato in un viaggio in aereo. E Habiba significa amore mio, ma anche è un'invocazione a Dio, una preghiera con la quale esistono, certo, tante preghiere, e abbiamo quindi dato un'ottica arabeggiante, spagnoleggiante, anche un po' nella zona dell'Andalusia, tanto che ho inserito nel disco una registrazione che ho registrato dal vivo quando vivevo a Siviglia, di una buleria che è uno dei palos flamencos più famosi, e ti piacerà, spero, perché si sviluppa, segue voli pindarici, poi ritorna alla melodia iniziale, un po' come dicevamo prima. Esattamente. Quindi qua c'è da sbizzarrirsi, perché dura anche progressive, tra l'altro dura abbastanza progressive, dura dieci minuti, preparati, perché io mi preparo. Progressive l'ho sempre amato, c'è un grande ritorno progressive, quindi. E se non sbaglio si conclude con Gastone Petrucci che canta un canto a Vatocco, che è un canto tradizionale della tradizione marchigiana. Gastone Petrucci è un grande della musica folk, ha lavorato con Monio Varia, ha lavorato con il canzoniere, quindi con cose che conosciamo, il rinnovamento folk degli anni 60-70, e quindi anche a lui un po' la dedichiamo in qualche modo. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. possa venire dentro te. Appartieni e sei un occhio di luce che si apre lento e un feto vuol crescere. Ti appartengo e sono fiato di donna che sfiora, cavalca e dorme su te. Già sento il vento crescere e io diviento para siempre. Non mi perderai mai. Non vedo solo curve tra le immagini. Io credo di perdermi. Oramai ti prego, lascia che il soffio corro. Appartieni e sei un occhio di luce che forma un triangolo e prigione fertile. Ti appartengo e sono fiato di donna che sfiora, cavalca e rincorre te. Già sento il vento dentro me e io diviento para siempre. Sogno rincorre me, Habiba, c'è il sole sui miei perché, Habiba, quel sogno sa crescere, Habiba, sei vento dentro me. Si è fatto lu core turchino, vede l'amore mia fra tante mano. E me si è fatto tu chino lo core, vede l'amore mia fra le parole. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 23:44, sempre Michele Tosoni in regia, il mitico Michele Tosoni in regia e i Cogliolo Ferne. Abbiamo parlato di questo pezzo molto lungo, molto complesso, questo finale, questo vento, giustamente il vento. Le parole del vento. Il vento è sempre un protagonista importante nei pezzi rock, secondo me. Perché è un elemento molto poetico, io trovo, no? Esattamente. Uno dei più poetici, prima di tutti quelli più noti. E racchiude oltretutto varie componenti. Il vento può essere anche fuoco se caldo, oppure può essere acqua se il vento tiepido del pomeriggio oppure del tardo sera, in particolare a settembre. E quindi no, sbaglio. Sì, è vero, io mi ricordo il vento di Cat Stevens, romanticissimo, o Blowing the Wind di Bob Dylan, eccetera. Esattamente. E tanti altri venti, chiaramente. Sì, ne parlavamo oggi di Dylan, per quello stavamo ridendo, perché abbiamo sentito una puntata di Lucarelli. Cosa diceva? Beh, non lo so, vabbè, che forse non era davvero caduto in moto, o forse la moto era più potente di quella. Questo è l'importante. Esatto. Si è allontanato però 2 anni perché aveva paura o qualcosa d'altro. Possiamo dire una cosa importante? Dimmi. Noi facciamo un applauso a questa radio perché mette i pezzi da 10 minuti e mezzo. Grazie, il grazie. Nostro, non so quale altra radio. È caratteristica di Rockway, non si taglia niente. Radio DJ ci boicottò per questo, ma voi no. Non si taglia niente. Secondo voi, come si fa a tagliare Stairway to Heaven che dura 9 minuti e 35? Posso baciarti in bocca? Sei sposato? Sì, sono sposato. Allora. Ma ho raffreddore. È un motivo più che valido. Ok, benissimo. Allora, facciamo una cosa velocissima. C'è il famoso giochetto sull'isola deserta. Siamo oggi in una serata particolare, noi abbiamo deciso, noi dello staff della redazione, di farvi fare suonare più possibile. Allora abbiamo scelto un compromesso: 3 dischi erano troppi, 1 era poco, ne facciamo 2 a testa, velocissimamente, per ricordare l'isola deserta, i 2 dischi dell'isola deserta di Rock Wave, a testa vostra. Giacomo, inizia pure tu, intanto io penso... Ma invece cominci tu. Ok. Vabbè, qualcosa di Jethro Tull sicuramente, però sono molto indeciso. Tra Aqualung o Thick as a Brick? Thick as a Brick è anche... A me piace molto anche Songs from the Wood. Bello. Songs from the Wood. Non molto amato, però bello. A me piace. Benissimo. E beh, un altro... questa la vedo dura. Forse il disco di Marco Carta. Non so come si chiama. No, volevo dirlo io. No. No, io dico quello di quel del suo amico che ha vinto quest'anno. Valerio Scanu. Valerio Scanu. Il disco di Valerio Scanu. Scanu, chiedo scusa. Valerio Scanu. Penso il suo, perché Mari può essere utile in un'isola deserta. Per tirarlo a una scimmia che passa. No, scherzo. Scherziamo. No, stiamo scherzando. Viva Sanremo. Sì. Ok, benissimo. Questi sono i dischi scelti dal nostro flautista. Vai te. Allora, io sicuramente... Eccolo qua. Sì, grande. Grande. Allora, porterei il disco, l'unico disco che hanno fatto i Temple of the Dog. Bello. Che, così salutiamo anche i nostri amici per Jam. che verranno a Mestre fra tre mesi. Vero, interessato. Vero. E un altro, non posso rinnegare il mio passato Pink Floydiano, quindi ho una Atomic Mother. Ecco, Atomic Mother è un disco meraviglioso, sì. Sempre amato anch'io, non molto amato dei fan, non si sa perché, dei Pink Floyd, perché loro, lo stesso Pink Floyd, hanno detto questo disco non ci piace. Io premetto che odio i gruppi rock che fanno un disco con l'orchestra, però quello è veramente eccezionale, perché è nato con l'orchestra. È vero, è nato con l'orchestra. Il nostro violinista, vai. Va bene, a costo di sembrare banale, Johann Sebastian Bach, 3 sonate, 3 partite per violino solo. Non è mica banale quello là, Può sembrare scontato per un violinista, per forza Bach, E per non rinnegare il mio passato al rock, The Fragile Art of Existence, The Control Denied. Sfido in cabina di regia a trovarlo. No. Un po' difficile, decisamente difficile. Vai. Io, a Fragile Art of Resistance, The Control Denied. Dopo il tuo inglese già è precario senza che cerchi di copiare il mio. No, stavo cercando tristemente di scimmiottarti, ma non ce l'ho fatta. Beh, io anch'io, da cantante lirico quale sono, e purtroppo è vero anche se non sembra, porterei il Don Giovanni di Mozart, che è un'opera che, diciamo, quella che principalmente adoro, e porterei il Segno d'acqua degli Oloferne. Benissimo. Che è un disco che potete comprare anche via internet al sito oloferne.com. Diciamo una cosa, è autoprodotto da voi? Sì, questo sì, è autoprodotto, dopo varie esperienze anche tra etichette e cose varie abbiamo proposto questo prodotto credendo che avremmo trovato un'etichetta, anzi la stiamo... Proposte sono arrivate, ma se ne arrivano di migliori sono ben accette. Quindi cogliamo l'occasione di Radio Blu Veneto per dire: produttori, fatevi avanti. Benissimo, noi siamo qua, quindi ecco. Ha messo un po' di classica. Michele è... Ah, Wagner è messo. Stiamo scherzando. Cioè, nonostante tutto abbiamo anche noi qualcosa. Sì. Il rock, ma non soltanto il rock. Ma questo può essere anche un rock, secondo me. Wagner è estremamente rock. Esattamente. Come Mozart lo è. Estremamente metal, parte. Wagner. Stiamo scherzando. Ok. Ah, tra l'altro noi, dimmi. Posso dirlo, abbiamo scritto una canzone che si chiama Lud di Wittelsbach, che notoriamente era un personaggio wagneriano perché aveva avuto a che fare con Wagner. Lui è stato un suo mecenate, se non sbaglio. In realtà c'è chi dice che fosse il suo amante, sì, però... Ludwig. Ludwig di Wittelsbach. E la nostra canzone si chiama Lud di Wittelsbach, che possiamo poi anche magari accennarla. Possiamo anche farla. Possiamo accennarla magari due giri, visto che ne abbiamo parlato. Benissimo. Che sì, parlando di Wagner, vedi, le cose vengono da sole. Esattamente. Accenniamo anche l'esibizione che farete domani. Sì, domani suoniamo al Fish Market e anche in questo caso ringraziamo perché questo concerto in collaborazione con l'associazione Experimenta, che in qualità di vincitori ci ha invitato in questo bellissimo club, anzi venite numerosi al Fish Market perché domani sarà davvero un bel concerto, faremo un paio d'ore di musica forte, divertente, anche ballabile, quindi mi raccomando venite e che altro dire, sarà uno dei pochi concerti che faremo adesso nel Nord Italia, quindi anche un'occasione per chi non ci conosce per ascoltarci. E i prossimi concerti dove andrete? Allora, da qua torneremo al Teatro Valle di Chiaravalle in provincia d'Ancona per un concerto con altri musicisti a favore delle vittime di Haiti. Il 5 o 4 marzo, 5 marzo. E faremo questo bel concerto dove verranno raccolti fondi per le vittime di Haiti. Poi poi festeggeremo San Patrick per il San Patrick Day, faremo una bella festa irlandese sempre nel provincia di Ancona per concludere poi questo viaggio al Teatro Comunale di Chiaravalle il 12 aprile con uno spettacolo teatrale musicale che porteremo in scena quest'anno. Poi ci sposteremo con i concerti estivi, da lì cominceranno le date estive che vengono di volta in volta, basta che vi collegate al sito su Facebook o dove altro, Alessandro, aiutami. Ma basta, su Google. Google scrivete Oloferne e usciremo noi. Benissimo. Per fortuna abbiamo scelto un nome molto particolare. Esattamente. Ok, allora ci prepariamo a sentire qualcosa adesso. Cosa avete deciso di fare? Facciamo Il Segno d'Acqua, benissimo, che è appunto il titolo del disco. È la title track, una volta si diceva la title track. Title track. Noi veniamo dall'acqua, l'Adriatico scorre nelle nostre vene e a tutti i segni d'acqua dedichiamo questo pezzo. Benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Ascolto il legno instabile che scricchiola sul molo, la luna ha un volto pallido che mi trattiene al suolo, nel cuore ho un elastico che si è impigliato al cielo, ma il peso delle onde oggi è più forte del pensiero. Così l'equilibrista anche stanotte s'avventura, la mente è mongolfiera appesantita di paura. Una Madonna scende tra le reti e i gatti stanchi, ha scelto qualche silos per nascondersi dai santi. È bello scivolare quando sei figlio del mare, oltre le secche fino a dove muore il suo cullare. Scalare l'onda, aprire il petto, essere vele al vento, ma a metà strada il terrore soffia contro. Il segno d'acqua è destinato a non aver conforto. Vorrei fuggire anch'io, aggrappato con le unghie al vento, cobalto come l'acqua che si sporca nel cemento, salire tra i mandorli dorati tra le sfere di miele, sarà il nuovo mare in cui galleggiare, seduto tendo il braccio verso un sogno bizantino, il sale che ho nel sangue si scioglierà un mattino, le ancore che ho tatuate affondano nel vino. Anche per oggi è perso il treno verso il mio destino. È bello scivolare quando sei figlio del mare, oltre le secche fino a dove muore il suo cullare. Scalare l'onda, aprire il petto, sì, e servele al vento. Ma a metà strada il terrore soffia contro. Il segno d'acqua è destinato a non aver conforto se. Oltre le secche fino a dove muore il suo cullare. Scalare l'onda, aprire il petto, sì, e servele al vento. Ma a metà strada il terrore soffia contro. E il segno d'acqua è destinato a non aver conforto, sì. Il segno d'acqua è destinato a non aver conforto. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Holofernes, ladies and gentlemen, Holofernes, quella title track, pezzo bellissimo fatto in versione molto molto dolce, delicata, con una piccola grinta nella base centrale, ma poi ritornato delicato. Una questione proprio diversa, l'avete completamente trasformato in chiave, sì, sì, sì, sì, molto romantica, romantico melodica, romantico alle 23:58, verso mezzanotte, fa bene, e fa bene soprattutto, fa sognare, cosa dite? Sì. Io l'ho sentito così. Sì, l'ho sentito decine di volte questo pezzo, perché l'avevo inserito a Non Solo Acustico, programma che va in onda tutte le notti, è andato in onda per un mese e aveva un certo tiro. Qui l'ha avuto un modo diverso, ma sempre positivo, secondo me. Questo l'ho sentito io stasera. Grazie mille, grazie. Davvero anche questa situazione, quando ci si sente apprezzati si suona meglio. Sì, quindi, è vero, si sente, e però, quindi siamo a nostro agio, siamo felici, non so davvero cos'altro dà aggiungere. Dato uno spirito, almeno il pezzo, anche a chi lo sente. In sì. questo momento io ero che lo sentivo, l'ho sentito un sacco di volte, e i nostri ascoltatori l'hanno sentito in una versione diversa, ma questo è positivo, perché bisogna anche cambiare, ma sempre rispettare certe regole, certo, certo modo di suonare. E quindi è stato rispettato pienamente. Il prossimo pezzo cosa fate? Il prossimo pezzo, ti volevo anche aggiungere, dimmi, a proposito di acqua e di mare, che c'è una ghost track all'interno di questo disco del Segno d'Acqua, che è una nostra rilettura di Moby Dick. Abbiamo letto una parte di questo romanzo meraviglioso, una parte un po' inedita tutto sommato, e l'abbiamo inserita con il sottofondo di un clarinetto di un grande compositore che si chiama Leonardo Sbaffi, che ha ricevuto la nostra proposta. Che devo dirti, le cose vengono così e lui ha accettato, e per noi è stato un onore. Abbiamo fatto questa piccola chicca che trovate all'interno del disco dopo qualche minuto, no? Cioè, sì, la traccia fantastica. Siamo costretti ad allungare i tempi della Ghost Track perché Alessandro, essendo un esperto di leggende metropolitane, vuole che il pezzo vada dopo un tot di minuti, perché certo, Beatles fecero così, perché esatto, una cosa o un'altra. Allora noi siamo costretti a far così perché perfetto, Alessandro ce lo impone, è lui che dà la direttiva, e di fatto c'è una ghost track in ogni nostro disco. È vero, sì sì sì. Direi anche che la ghost track del primo disco è veramente un gioiello. Io, visto che mi fanno cenno di continuare a parlare lasciami dire che Alessandro, tra l'altro, curiosamente dico questo con cognizione di causa, perché ha un sito di leggende metropolitane che si occupa di musica, che è... Beh, vabbè, adesso... Dillo, scusa. Beh, vabbè, leggendemetropolitane.net. Molto semplice. Molto semplice. Benissimo. Ok, allora sentiamo questo pezzo. Il prossimo pezzo è Controcanto, e ci colleghiamo poi anche un pezzo con il quale apriamo il disco, che è Danza, e con Danza presentiamo il gruppo Live. Benissimo. Rock Wave. L'onda del rock. Cerchi la luna, lei tanto non si riposa, infatti eccola qua. Cerchi fortuna, ma la ruota gira di fretta e non si fermerà. Dici qualcosa contro canto e intanto ti sposti più in là. Prova a gridarla in contro canto e la voce mia ti dirà che la musica, eccola qua. Non ti riposi, e la polvere che si è indurita non ti basterà. Non è poi mica un controsenso, è una mano che ti abbraccerà. Prova a gridarla in controcanto, è la voce mia che ti dirà che la musica, eccola qua. E senti com'è calda stanotte, il tuo destino era qui. Bacia le tue mani stanotte, vuole solo accarezzarti. Ti ruba solo il cuore stanotte, perché prima è presto, dopo è tardi. E la musica, eccola qua. Senti com'è calda stanotte, il tuo destino era qui. Bacia le tue mani stanotte, vuole solo accarezzarti. Ti ruba solo il cuore stanotte, perché prima è presto, dopo è tardi. E la musica, eccola qua. Hey. verso il cuore stanotte, perché prima e presto dopo è tardi, e la musica, eccola qua. Chiediamo a chi sta in radio di battere le mani con noi per quest'ultimo pezzo, che è Danza di un uomo di paglia, col quale presenteremo il gruppo come fossimo ad un concerto live. Bene, hanno suonato per voi oggi en directo, come si dice in spagnolo, partendo dalla spina dorsale del gruppo, alla chitarra, al flauti, alla voce Alessandro Piccioni. Clap your hand! Grazie! On guitar, alla chitarra, Gianluca Agostinelli. Grazie. Al violino, il sex symbol del nostro gruppo, il maestro Giuseppe Paganini Cardamone. Grazie a Blu Radio Veneto di averci ospitato. Vi aspettiamo domani, però mi raccomando, venite al Fish Market perché sarà un concertone. Questo era un assaggio acustico, domani non dovete mancare. Grazie a Experimenta che ci ha ospitati e che ci ospiterà ancora, e per questo concerto che è nato, grazie mille. Davvero, viva i DJ di Radio Blu Veneto, la regia e tutti quanti, che la Virgen di Guadalupe vi benedica tutti quanti, e che altro. Io sono Giacomo, salutiamo Marco che domani sarà con noi, e Stefano Procaccini, Francesco Mandolini che ci aiuta col gruppo, che domani sarà qua, che altro, se non buon divertimento, grazie ancora, e chiudiamo con questo brano. Comprate i nostri dischi che fanno bene alla salute. Thank you. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ho trovato così, è stupenda. Bravi. Ok, sì, sì. La chiusura era questa, però era una chiusura, sì. La chiusura da concerto, ma il concerto acustico è un po' diverso, quindi continuiamo un'altra decina di minuti per concessione di musicisti, Paganini compreso. Esattamente. Innanzitutto ricordiamo un'altra cosa importante, che l'album è stato prodotto totalmente da voi, e anche ricordiamo le copertine, che sono molto belle. Beh sì, diciamo, noi abbiamo un po' scelto di intraprendere a livello di grafica. Esattamente, poi, le etichette indipendenti o le etichette autoprodotte fanno le copertine, la ricerca, il libretto molto ricercato, ben diverse dalle major praticamente. Le major di ste robe qua non si interessano assolutamente più. Beh sì, perché le major comunque venderebbero a prescindere. Esattamente. Noi crediamo che il valore del disco, oltre chiaramente alla musica che contiene, ma ormai sappiamo bene che la musica viaggia su canali digitali, canali tutt'altri canali. Il disco è soprattutto un oggetto che deve essere piacevole da toccare, da poter aprire, scoprire, sfogliare soprattutto. Una volta l'LP, ti ricordi? Esatto. Si apriva, aveva un sapore, un odore che adesso non... disco, esatto. Il CD non ha più. E questo, ecco, noi abbiamo puntato molto sulla confezione, non tanto perché, ecco, diciamo per proprio per questo discorso, mi stavo creando un discorso, non so, mi ero intrecciato. Ma scusate, l'idea, la progettazione tua è a grafica o di Angelo? Sì, diciamo, la grafica la seguo io, anche perché faccio, è un po' anche il mio lavoro, il parallelo lavoro. E, al di là di questo, sì, è ricercata, perché comunque aspiriamo al fatto che il nostro album sia proprio un oggetto che sto intrecciando. Sì, è un bel vedere. L'idea è un bel vedere, un bel vedere. Sì, un bel vedere, sì, è un bel annusare, no? Esatto, un oggetto proprio che dia un piacere, sì, proprio a toccarlo, a toccarlo davvero, a toccarlo, esatto. Esattamente. Quindi ecco perché magari la confezione Digipack, perché c'è un libretto con un certo tipo di carta. Non solo, adesso ricco. Alessandro, mi ricollego, il libretto che abbiamo messo nel segno d'acqua, il libretto che ripercorre tra l'altro anche una storia poetica e letteraria. Io adesso non voglio anticiparlo, magari compratelo così lo sfoglierete, ma le citazioni che troverete domani dentro... sera Fish Market, per esempio. Esattamente, le citazioni che trovate sono riferite non solo ai testi, ma a un percorso proprio di una sorta di navigazione immaginaria dai primi testi omerici fino a Eliot, che è uno dei poeti che più amiamo e che più rientrano un po' nelle nostre canzoni. Non solo, ma le copertine del disco hanno un senso. La prima era un quadro del Caravaggio, appunto, Giuditta, certo, che decapita Oloferne. Il secondo, un quadro meraviglioso di Van Gogh, Campo di grano con corvi. E l'ultimo, tra l'altro, uno degli ultimi quadri che dipinse prima di uccidersi. Certo. E l'ultimo è La grande onda di Yokusai. Yokusai, il meraviglioso pittore giapponese che sembra aver disegnato, certo non l'ha fatto per noi, ma era perfetto per noi. E lo abbiamo inserito, tra l'altro scoprendo anche, abbiamo fatto un'intervista a un tuo collega in una radio, Radio Studio 24. Bene. Una bella intervista anche lì, e ci disse: ma sapete che un gruppo che si chiama, non ricordo come, Le Indigo Girls, bravissimo, le Indigo Girls. Hanno fatto un disco nuovo con la vostra copertina. Io già chiamai il mio avvocato. Sì. Adesso c'è una causa. Adesso c'è la causa in corso. Vediamo un po'. Sono molto famose le Indigo negli Stati Uniti. Beh, loro stiamo contano nella prescrizione, ma noi ce la faremo. Andate avanti. Ma noi andremo avanti. Chiaramente sì. Una cosa volevo chiedervi: che difficoltà avete avuto nell'incidere un album da voi stessi, l'autoproduzione? Tanta oppure no? Ma io scusami, no. No, sinceramente no, perché noi amiamo quello che facciamo, abbiamo fatto fatica anche economica, perché noi abbiamo avuto un'etichetta che ci ha aiutato, ci ha distribuito, abbiamo suonato, abbiamo fatto anche dei concerti grazie a loro, quindi delle cose sono state fatte, però l'amore per la musica ci ha portato avanti e, come dire, abbiamo registrato un bel disco con certo un buon patrimonio, ma noi ne vendiamo tanti, devo essere sincero. È importante, e quindi andiamo tanti, per se Dio vuole. E i locali ci pagano fino adesso, spero domani non si inizi un nuovo ciclo, ma non c'è credo. La crisi, dico di no. C'è la crisi, dico di no. E quindi le cose, devo essere sincero, lasciamelo dire, vanno bene. Bene, questo è positivo. Abbiamo circa un quarto d'ora prima della fine del programma e abbiamo deciso, noi dello staff, che poi ricorderemo alla fine della trasmissione, di farvi suonare ancora fino alla mezzanotte e mezza. Quello che volete, a vostro piacimento. Fa diesis come Fard, penso. Che dite? Ma direi di sì. Diresti di sì? Direi di sì. E poi io ho un mio desiderio, non so se accettate, ve lo dico. Alla fine del pezzo, alla fine alle 12:29, quei 30 secondi, il ritornello della title track dell'album nuovo. Assolutamente. Che a me sì. è piaciuto moltissimo in questa versione che avete fatto stasera. Alla grande. Allora okay. Prendo la chitarra e iniziamo. Commediavale. Rock Wave, l'onda del rock. Mai rincorrere i miei guai, l'inferno mi dà serenità, più grande odio alla maschera che il desiderio poi utilizzerà. L'istante mi dà imparzialità, più grande odio alla maschera che il desiderio poi utilizzerà. Probabilmente c'è una sinfonia che ogni tanto si dà, a starte si chiama fa diesis come far, lai lai nere la, il suo seno sarà un diapason d'eternità. Thank you. sai se l'inferno c'è, è impressione o istante. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, siete stati strepitosi, bisogna dirlo. 20, se mancano 10 minuti alla mezzanotte e mezza, adesso stiamo per concludere. Io vorrei ringraziarvi per le emozioni che ci avete dato, veramente delle grosse emozioni stasera, una cosa molto bella. Devo ringraziare il mio staff, Michele Toson, mitico regista Michele Toson. Grande. Agostino che ha curato le telecamere. Grande. Alberto che ha organizzato tutto. Grande. E Linda dell'associazione che ha portato qui gli Olofen, e anche Vannuccio e Nino che ci danno una mano nello staff. Grazie a tutti per le grosse emozioni e la grande cavalcata con la vostra musica che ci avete donato stasera. E concludiamo con quello che volete voi, con un piccolo finale dedicato alla title track del vostro stupendo album. La canzone che abbiamo già fatto, quindi. Esattamente. Paganini non ripete, ma stavolta ripeterà. Ok. È bello scivolare quando sei figlio del mare, oltre le secche fino a dove muore il suo cullare. Scalare l'onda, aprire il petto, sì, essere belli al vento, ma a metà strada il terrore soffia contro e il segno d'acqua è destinato a non aver comporto. No, il segno d'acqua è destinato a non aver conforto. Ringraziamo Radio Blu Veneto per averci ospitati, tutti i tuoi ascoltatori, speriamo di rivedervi presto. Collegatevi al sito e venite ai nostri concerti. Grazie, viva la musica! Questa sì che è improvvisazione. È bello scivolare quando sei figlio del mare, sì, oltre le secche fino a dove muore il suo cullare. Scalare l'onda, aprire il petto e servele al vento, ma a metà strada il terrore soffia contro. Oh, il segno d'acqua è destinato a non aver conforto, sì, il segno d'acqua è destinato a non aver conforto, sì. Blu Radio Veneto Rock. Avevo già salutato, vabbè, salutiamo un'altra volta, grazie per il finale, una jam session. Grazie a te, abbiamo voluto così, è stato meraviglioso. L'appuntamento per lunedì prossimo, avremo un appuntamento di Rockwave lunedì con i Down Pilot, con un gruppo americano. Wow. Beh, e mercoledì ci sarà, come il nostro simbolo, ascoltare per credere. Mercoledì dovete sentire cosa ci sarà. Di dove sono? E i Down Pilot sono americani. L'ascoltare per credere non lo so, perché sarà un segreto. Arriveranno, non so, da qualche parte di meraviglioso, tutto. Meraviglioso. Seattle. Non poteva essere altrimenti. Vedete, voi avete girato il mondo e loro vengono in Italia, voi siete in Argentina, in America Latina. Grazie a Iolo Ferne. Grazie a tutti presenti domani sera al concerto alla grande al Fish Market. Bye bye, grazie, buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte. Rock Wave, l'onda del rock.